Germano, eccoci in salvo. Ardita impresa fu il precipizio e fer dall'alta torre. Ma che la nostra sorte tentar dovea si col maggior pericolo. Poi caudaci consiglio, sempre meno d'orror di certa morte. Abbandoniamo queste nemiche strade e a risarcir il già sofferto oltraggio. Parvino campo armato con usura d'onor le nostre spade. Lieto ti seguo e spero.